presente c'è. Ecco, sono Bosio di Milano. Lei è l'autore del Maggio? E di Costabona? Di Gova. Gova, ma è sì, distante. Un'altra frazione, distante un'altra di qui 5 km, 6. Che mestiere fa? L'agricoltore, coltivatore diretto. Ah, coltivatore diretto. Lei ha sempre fatto Maggi? No, ho cominciato i primi, li ho fatti nel 32, 31, 32, 33. E poi dopo ho lasciato perdere. Ah. E poi dopo con l'andare avanti dopo di questa guerra, che il maggio stava per essere dimenticato ormai. E allora qui a Costabona mi dissero se avrei fatto un maggio e io senza tanto rumore cominciai. E vidi che la cosa andava e lo feci. Dopo che io l'ebbi fatto, loro ne cantarono un altro. Ah, un altro. E il mio rimase a casa mia, che l'hanno poi preso l'anno dopo, che è postato l'anno scorso. Ho capito. Ma come quest'anno ho fatto questo, l'anno dopo ho cominciato quello di oggi. Ah. E l'ho cominciato in febbraio con l'intenzione di finirlo entro maggio, perché il maggio bisognerebbe cominciare a cantarlo di maggio. Di maggio. Vede. Invece, quando sono stato al 5 di marzo, che era circa 20 giorni che l'avevo cominciato. Di che anno? Del 65. 65, l'anno scorso. L'anno scorso, il 65. Mi si è ammalata una mucca. Ah. Ne ho due. L'altra costa poco, 150.000 lire, quella lì invece costava 300.000 lire, una mucca selezionata, ammalata, e ho dovuto curarla dal 5 marzo fino al 15 aprile. E i pensieri erano rivolti verso l'economia di casa, verso la mucca, verso il maggio accantonato. Dopo avviene l'estate, il tempo dei lavori, e il maggio si abbandona. E lì è rimasto il 7 settembre la fiera Quara, sono venuto, ho trovato gli amici di un paese e dell'altro, e qui si parla di maggio, maggio, maggio, maggio. Io la sera sono andato a casa, che avevo il maggio nella testa. Dopo cena mia moglie dice: io vado qui alla televisione in un'altra famiglia, se vieni anche tu. Dico: sì sì, vengo, vai là. E allora lei è andata fuori, e io invece di andare dietro chiudo, perché dico: se vedono la luce accesa qualcheduno viene dentro, io sono fregato. Ho chiuso, mi sono chiuso lì dentro e ho ricominciato così. Dalle 7:30 fino alle 9:15, quando lei è tornata, avevo fatto 14 di quelle quartine lì. Che quasi tutte, ce n'erano tre da ritoccare, andavano quasi bene. Ed era precisamente nel punto quando questo si veste da donna e che va là dentro, l'ho visto? Ah sì, sì, sì. Eh? Sì, sì. E per me era un punto cruciale, perché lei deve pensare: io adesso devo andare là dentro con quale scusa, con quale trama, con quale parola? Eh? E allora lei ha fatto la trama che è figlia di Arrimonte, un grande caporione pagano, e che suo padre l'ha mandata da lui per studiare la storia di questo castello della Città del Sole. Ecco, ha sentito Bleda che dice: fra le nostre famiglie c'è l'amicizia, e vieni, la coglie, e invece è poi rimasto fregato, ma la colpa non è mia. Ma io ho dovuto pensarlo però, eh già. E scriverne le parole e dirne le cose. Aspetti un momento che mi...